è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Eccoci qui, 18.37, benvenuti alla Zanzara, come al solito ogni sera con le vostre telefonate, numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666, lazanzara@radio24.it, e andiamo subito a sentire i titoli del TG2. Sì, di Berlino agli aiuti in favore della Grecia, procedure accelerate, preoccupazione della Casa Bianca, abbassato il rating della Spagna, borse ancora in calo. Alla Camera governo battuto sull'emendamento del PD al disegno di legge sul lavoro, l'opposizione vittoria politica, dal PDL accuse ai Finiani, è stata un'imboscata. La Procura Generale della Cassazione dice no alle coppie che vogliono adottare un bambino scegliendo l'etnia o il colore della pelle. È morto a Roma all'età di 90 anni Furio Scarpelli, in coppia con Age, ha regalato sceneggiature memorabili al cinema italiano. Andiamo a sentire anche i primi titoli di Studio Aperto. Mia moglie stava male, nessuno l'ha aiutata, parla il papà di Ilaria, la neonata morta nel rogo dell'auto appiccato dalla mamma. La donna, accusata di omicidio volontario, è ricoverata in psichiatria a Benevento. Alessio, Silvia e il piccolo Nicolas, la storia della loro giovane famiglia finisce con queste immagini, travolti sulla A4 da un ubriaco al volante che ora è agli arresti domiciliari. Accordo in Europa per salvare la Grecia dalla crisi, la Germania dice sì agli aiuti ma vuole un piano di rientro dal debito. Poco fa però si è aperto un altro fronte, Standard & Poor's infatti ha declassato la Spagna. E iniziamo con un po' di teatrino della politica. Da ieri sera a Ballarò, il solito Bondi versus Di Pietro. Berlusconi da sempre ha mangiato e mangia pane e conflitto di interessi. No, lei lo mangia. Lei, sul piano lei ha solo mangiato. Lei ha solo mangiato. Lei ha solo mangiato. Lei ha solo mangiato. Lei ha solo mangiato. Lei ha solo mangiato. Se vuole, le dico anche che cosa ha mangiato. Farvi parlare. Cosa ha mangiato nella sua vita da politico? Immagino, non la sera o a pranzo Di Pietro, sentiamo. Ma scusi, ma è possibile ascoltare un sul uomo che ha preso, no, che ha preso delle automobili dagli amici quando era magistrato? Però, ma si può ascoltare un uomo che non ha diritto di parlare su temi morali? Mi hanno appena dato 400.000 euro quelli del giornale. Sì, sì. C'è gente per il risarcimento d'arte. Le faccio la lista dei regali che le hanno fatto quando era magistrato. Le faccio l'elenco dei regali che le hanno fatto quando era magistrato. Aspetti, non ha titolo a parlare di moralità. Allora, perché gli rode tanto? Siccome c'è gente che lo vota, lei fa orrore. Vabbè. Lei fa orrore. Frase mitica che spesso viene ripetuta, credo sia la seconda volta per Bondi. E andiamo alla fine dello scontro Bondi Di Pietro. Sul piano giudiziario, egli sta facendo il presidente del Consiglio e il capo della maggioranza parlamentare solo ed esclusivamente per farsi legge ad personam che gli serve per lei non mente, farsi processare. Lei sta mentendo. Terzo, sul piano della lei comunicazione, sta mentendo. Ci lei sono, sta mentendo. Lei è un mentitore. Sul piano elettorale, lei è un mentitore. Ha tre lei è un mentitore professionista. E perché ha il controllo lei della RAI. Non ha pubblica. Titolo di parlare di per moralità. Egli ha un monopolio dell'informazione che e come in tale il conflitto di interessi. Lei è la persona sul piano Sky Mediaset, no, lei è una persona perché immorale, egli insieme è a Media, non insieme alla RAI ha realizzato TV Sat e TV Sat serve per avere il monopolio sul piano dei decoder perché ha dato. Beh, nell'ultimo minuto io non ho capito assolutamente nulla. Questo ieri sera da Ballarò, Alessandro Sallusti, condirettore del giornale. Buonasera. Buonasera. Allora, poco fa, durante la registrazione di Porta a Porta, c'è stato un nuovo scontro sul giornale da parte del presidente della Camera. Queste le parole, l'aver letta anche lei dalle agenzie. Sì. C'è un giornalismo che sguazza nel fango per non citare quella materia organica che rese famoso Cambron, che va oltre il livello della decenza. A cosa si riferisce, diciamo la verità, alla merda? Cosa... Se mi permetti di tradurre per i tuoi ascoltatori, Fini ha detto che il giornale è un giornale di merda. Più o meno così, no? Sì, farete il titolo su questo domani? Beh sì, stiamo sull'argomento, ci sarà un editoriale di Vittorio Feltri, ma adesso ci arriviamo. Ricapitoliamo per gli ascoltatori. Questa mattina il giornale titola in questo modo: paga mamma Rai 1 milione alla suocera di Fini, la madre della compagna del presidente della Camera, capo di una società che da settembre produce parte di una trasmissione, share modesto, cachet molto meno. Intanto Berlusconi liquida l'ex leader di EN, è isolato. Vabbè, questa è politica. Allora, devo dire però che la notizia, come poi riporta anche il giornale, è stata diffusa ieri da Dagospia, e oggi non solo la pubblica il giornale prima pagina col titolo, ma anche, credo, altri quotidiani, sì, pagine interne, il Fatto Quotidiano, se non sbaglio. Sì, esatto. Ora, la domanda è questa innanzitutto: perché voi avete deciso di mettere in prima pagina questa notizia? Beh, perché ci sembra una notizia. In questo paese sembra che sia possibile fare tutto meno che pubblicare notizie. Il fatto che la RAI dia in appalto una trasmissione pagandola a fior di soldi, cioè con soldi pubblici, a una società che è di proprietà della mamma del Presidente del Consiglio, del Presidente della Camera, che è una signora anziana che nulla ha a che fare con la... Cioè della mamma della compagna, sì. La mamma della compagna, la suocera, perché sì, insomma Fini e la sua compagna vivono insieme, hanno dei figli, per cui insomma è un nucleo familiare, e che questo appalto sia stato concesso dopo che Fini è diventato Presidente della Camera e dopo che si è unito con questa signora, ci sembra una notizia. Non abbiamo detto che è una cosa scandalosa, è una notizia. Ora è tutto il giorno che si dibatte sull'opportunità di darla, ma nessuno ha ancora spiegato come mai e perché la RAI ha deciso di appaltare una trasmissione alla suocera del Presidente della Camera. Beh, la RAI appalta un sacco di trasmissioni. Appalta un sacco di persone, ma il Presidente della Camera, che in questi giorni sta dando a tutti, compresi a noi giornalisti, in particolare a noi del giornale, lezioni di trasparenza, di modernità, siamo il nuovo, siamo la nuova destra, siamo la destra europea che avanza, beh, poi... come dire, alcuni vizietti o ambiguità del vecchio, lui ce li ha in casa. Ecco, per cui non è però un titolo neutro quello là, anche nell'articolo. Comunque insomma si fa capire che quell'appalto è stato dato soprattutto perché c'è questo legame di parentela. Beh, che sia stato dato per questo, peraltro io questo non lo so, però è stato dato. Allora perché ci chiediamo non dirlo, no? Per evitare appunto qualsiasi ombra, qualsiasi dubbio, si poteva dire pubblicamente la RAI, il presidente Fini, la moglie di la compagna di Fini, guardate, è tutto regolare, anche perché la signora proprietaria della società non fa televisione di mestiere. Questo che è un po' strano. C'è una società nata nell'ultimo periodo, cioè in questi ultimi mesi. È una società nata nell'ultimo periodo e la signora non si è mai occupata di televisione. Si è occupato di televisione il figlio della signora, che è il fratello della compagna di Fini. Insomma, è evidente cos'è. Insomma, secondo lei è evidente che c'è un favore esplicito da parte del Presidente della Camera alla famiglia della sua compagna? Questo vuole dire? Diciamo che c'è stata un'attenzione, assolutamente legittima attenzione, non stiamo parlando di cose illegittime o illegali, stiamo parlando di cose che si volevano tenere nascoste. Allora, secondo noi è compito del giornalismo anche portare alla luce. Allora, non si capisce perché quando Repubblica o giornali di sinistra portano alla luce ambiguità, zone d'ombra, vizi e vizietti del Presidente del Consiglio, è grande giornalismo, scoop, libertà di informazione, quando il giornale scrive che il direttore di Avvenire è stato condannato per molestie telefoniche a sfondo sessuale, oppure perché la compagna di Fini, la mamma della compagna di Fini ha avuto un appalto dalla Rai, allora è spazzatura. Torniamo tra questo tra un attimo, dopo il traffico, perché oggi, tra l'altro, lasciando da parte l'affare Boff e concentrandoci su questa vicenda, c'è stata una sorta di unanimità, di unanimismo, possiamo chiamarlo così, tra i politici su questa vicenda, con parole di solidarietà financo del Presidente del Consiglio nei confronti di Fini, proprio sul titolo del giornale. Siamo qui col condirettore del giornale Alessandro Sallusti per quest'ulteriore polemica che riguarda il giornale e Gianfranco Fini. Allora, mi pare di capire che Fini sostiene che il giornale è un giornale sostanzialmente di merda, cioè certo giornalismo sguazza nel fango. Lei ha tradotto: Fini sostiene che il giornale è un giornale di merda. Su una notizia che è vera, che Fini non ha smentito, ovviamente, perché essendo vera. Ecco, però la cosa importante da sottolineare è questa: lei sostiene, perché è un punto dirimente, perché altrimenti il fatto che ci siano intrecci e parentele tra uomini politici e persone che fanno affari non è di per sé una notizia. No, lei dice no. Che ci può essere lo zampino, anzi, c'è, ci ha detto prima, sicuramente lo zampino del Presidente della Camera nel fatto che questa società che è legata a parenti di Elisabetta Tulliani abbia preso questo appalto all'interno di un programma della RAI. È così? No, io no, questo io non lo dico perché non lo so e non posso dirlo. Dico che per una chiarezza, per una trasparenza, soprattutto da parte di un leader che si propone come il nuovo, certe zone d'ombra, ambiguità della vecchia Repubblica sarebbe meglio lasciarle da parte e non ci sarebbe stato nulla di male far sapere, i canali ci sono, che c'era questo appalto e che l'azienda di famiglia aveva vinto questo appalto, invece che mascherarla dietro un nome di un prestanome, perché ripeto, questa signora non si è mai occupata di televisione, quindi è una signora a cui è stata intestata una società. Sarebbe stato tutto molto più chiaro, più semplice, più trasparente. Cioè Fini doveva parlare prima, secondo lei? Fini o chi per lui, insomma, dire la RAI stessa, dire: signore, abbiamo dato un appalto a un parente, diciamo così, stretto della famiglia del Presidente della Camera, non c'era niente di male. Allora Fini, tra l'altro, ha detto: oggi ho ricevuto anche la solidarietà del fratello dell'editore del giornale, cioè Berlusconi. Si dà il caso però che non sia stato un incidente, e dunque qui è la teoria, diciamo, di Fini, che non è la prima volta, c'è una sorta di trama del giornale contro di me. O non leggi i giornali o non si sa perché soltanto oggi la solidarietà. In realtà la solidarietà è venuta un po' da tutti i politici. Come se lo spiega lei, Sallusti? Ma questo non lo trovo assolutamente legittimo. La classe politica si tutela, ha degli interessi diversi da quelli del giornalismo, ha in questo momento degli equilibri da tutelare e legittimamente lo fa. Fini parte da un presupposto sbagliato, che è indice anche di come in realtà la pensa sulla democrazia che reclama all'interno del partito. Fini evidentemente è abituato che gli editori di un giornale comandano sul giornale, decidono che cosa fa scrivere, che cosa non fa scrivere, che cosa censurare, che cosa non censurare. Cioè Fini ritiene che tutto quello che scrive e non scrive il giornale sia suggerito, imposto da Silvio Berlusconi, e quindi, come dire, trasporta subito in politica i contenuti del giornale. E giustamente Silvio Berlusconi, che immagino che oggi sia anche abbastanza arrabbiato con noi perché gli abbiamo creato un problema politico, proprio perché Fini lo ritiene il mandante di questo articolo, Silvio Berlusconi giustamente dice: guardate, io non c'entro nulla. Del resto è così, anche gli altri politici dicono: guardate che noi politici non c'entriamo nulla, anzi, siccome... No, ma infatti io non ci trovo niente di male sul fatto che il giornale da un po' di tempo a questa parte abbia un'attenzione particolare nei confronti di Gianfranco Fini. Tra l'altro Repubblica ha un'attenzione particolare nei confronti di Berlusconi, il giornale da un po' di tempo a questa parte si concentra su Fini, poi gli obiettivi, tra virgolette, giornalistici, sempre dico, possono cambiare, naturalmente. Ora, la cosa che trovo, ecco, francamente, a meno che non ci sia una ripeto, la prova che dal Presidente della Camera sia arrivato una sorta di, o da uomini vicini al Presidente della Camera, si sia voluto imporre un certo tipo di appalto, è che, insomma, se lavora, se la suocera, se i genitori della signora Tulliani lavorano alla RAI, insomma, alla fine chi se ne frega, o no? No, non c'è nulla, ma se fosse chi se ne frega non capisco tutto questo trambusto. Evidentemente è stato svelato, portato in pubblico una cosa che non è reato, che non è illegale, che è probabilmente assolutamente legittima, ma della quale evidentemente qualcuno si vergogna, prova imbarazzo, no? Perché comunque è come se io faccio assumere il mio figlio da un giornale di cui ho il controllo, quindi c'è un attimo di imbarazzo col resto della redazione o con chi aspirava a quel posto, perché dice, beh, certo, l'hanno assunto perché è il figlio del direttore. Lì immagino sia una situazione del genere, forse più psicologica, come più avere una coda di paglia che aver commesso un reato. E quindi ha dato fastidio che si sapesse che la compagna di Fini, la famiglia della compagna di Fini fa affari con la RAI. Non ci vedo nemmeno io niente di male se quello è il loro mestiere, ma diciamolo, non c'è nulla di male a non dirlo, non c'è nulla di male a dirlo. Bene, grazie. Grazie Alessandro Sallusti, poi naturalmente la discussione è aperta anche con gli ascoltatori. Andiamo a Domenico da Milano, buonasera. Sì, buonasera. Prego. Posso parlare? Sì, certo. Dunque, volevo fare una domanda appunto al vice direttore del giornale. Che è andato via, comunque dica. Adesso quello che è successo tra Fini e Berlusconi, e la notizia sarebbe venuta fuori ugualmente? Ma magari sarebbe venuta fuori, ma con meno enfasi. Devo dirle, Domenico, questo bisogna ribadirlo, perché non è uno scoop vero e proprio del giornale. Il giornale l'ha riportato oggi in prima pagina, ma la notizia era uscita già ieri sul sito Dago Spia. Oggi la riprendono diversi quotidiani, non solo il giornale, anche il Fatto Quotidiano, Marco, non mica poco. Come, scusi? Dico, loro la notizia la rimarcano mica poco. No, ma infatti ci fanno il titolo in prima pagina, poi, facendo intendere, come ho fatto presente al direttore del giornale, che Fini abbia avuto, insomma, no, ci abbia messo una buona parola. Che poi non vedo cosa ci sia di male, sia la suocera o la compagna o la sorella. Beh, insomma, se ci fosse la prova che il presidente della Camera si è mosso per far ottenere questo appalto, insomma, magari qualcosa di male c'è, che dici? Sì, perché il fratello di Berlusconi, no, ma io con tutti gli appalti che ha vinto... No, guardi Domenico, io parlo dal punto di vista politico, poi per me sono d'accordo con lei, non c'è niente di male, ho già detto al condirettore del giornale, chi se ne frega che la famiglia Tulliani lavora con la RAI, no? Quello è poco ma sicuro. Grazie, Gianni da Bologna, buonasera. Gianni, prego. Quindi, Cruciani, buonasera. Dica. E niente, no, stavo ascoltando questa conversazione riguardo Fini, cioè quando ci sono queste cose si cerca sempre di andare a scavare per mettere in pessima luce. No, quello che voglio capire da lei, Gianni, mi scusi, Fini ha detto, questo è un giornalismo di merda, parlare della suocera, questo lo aggiungo io, parlare della suocera o comunque della madre della mia compagna, ha ragione o no? Allora, ha usato un tono forte. Io parto, intanto gli dico subito, sono un elettore di centrosinistra e do ragione a Berlusconi per il comportamento che ha assunto Fini, andiamo indietro di qualche giorno. Sì. Quindi un presidente della Camera non deve assolutamente scendere in politica così come ha fatto lui. Questo l'ho capito, ma sulla questione Feltri-Fini... sulla questione Feltri-Fini c'è un botta e risposta attraverso un organo di stampa, attraverso un ruolo politico. Secondo me non deve neanche intervenire, deve fare finta che non esista al limite. Bravo, questa è una buona risposta, cioè Fini deve far finta che il giornale non esista. E avere un'estremazione di questo tipo lo va a mettere in condizioni come se fosse stato provocato e lui reagisce in questa maniera. In questa maniera è in difficoltà perché è sceso in politica nel momento sbagliato, con il ruolo di presidente della Camera, non si fanno questi discorsi. Ho capito Gianni, adesso devo dare la linea al giornale radio, però come secondo me Berlusconi non deve parlare di Saviano, Fini non dovrebbe occuparsi del giornale. Eccoci qui con la zanzara, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta, sms 349 238 6666 TG3. Grecia sì della Germania agli aiuti, ma Atene deve accettare un piano rigoroso, dice la Merkel, declassata anche la Spagna. Fini, nessun divorzio da Berlusconi, ma continuerò sempre a dire la mia su giustizia e rispetto delle regole. Bossi, no al voto anticipato. Governo sotto alla Camera sull'arbitrato, per un solo voto sfiorata la rissa in aula tra deputati del centrodestra, accusa Fignani, è un'imboscata. Lodo Alfano bis, il centrodestra al lavoro sullo scudo per le alte cariche, intercettazioni, il sindacato dei giornalisti, no al bavaglio. Il vulcano più pericoloso è quello di Ischia, dice Bertolaso, è procurato allarme, risponde il sindaco dell'isola, Enzo Boschi, nessun timore. Adozioni, bambini non si scelgono in base al colore della pelle, dice la procura generale della Cassazione, aggiorni la sentenza. Stasera nerazzurri a Barcellona per conquistare la finale di Champions, giocheranno contro la squadra ritenuta più forte al mondo. Bene, andiamo a sentire anche Sky TG24. Via libera della Germania agli aiuti alla Grecia, le borse invertono la rotta. Papandreou si appella all'Europa per spegnere l'incendio, ma dice no ai tagli salariali. Governo battuto sul DDL lavoro, solidarietà di Berlusconi è finito con l'attacco del giornale. Bossi dice no alle elezioni anticipate, rilancia, la Lega vuole solo il federalismo. 'Ndrangheta colpo al boss di Rosarno, fermati 40 presunti affiliati alla cosca pesce. Un ordigno blocca la A1, fatta brillare una bomba al fosforo trovata da un agricoltore. La marea nera si avvicina alla Louisiana, per fermarla si pensa a incendi controllati. Gordon Brown, tradito da un microfono, dà della fanatica a un'elettrice e poi si scusa per la gaffa. 100.000 contro il sogno di Mourinho, tutto esaurito a Barcellona per la semifinale di Champions. La rivoluzione Juve inizia dagli Agnelli, Andrea figlio di Umberto è il nuovo presidente del club. Viva l'Italia, l'Italia che ha scelto di credere ancora in questo sogno. Presidente, siamo con te. Meno male che Silvio c'è. Allora, ieri sera durante l'intervista che Gianfranco Fini ha concesso a Ballarò abbiamo scoperto che al Presidente della Camera non piace questa canzone, quella che state ascoltando. Meno male che Silvio c'è, che è, diciamo, un inno del PDL. Non so se possa essere definito tale. Beh, è evidente che è un inno che non mi piace, non perché non mi piace che ci sia Silvio, ma unicamente perché un partito credo che in questa fase post-ideologica non abbia bisogno di inni. Meno male che Silvio c'è. Ancora poi da... di sentire ed essere bollati di eresia ideologica, deviazionismo comunista è tipico di una certa stampa, non lo ha mai detto Berlusconi, almeno a me, di una certa stampa che ha una concezione, diciamo, un po' muscolare del bipolarismo, insomma. Sono quelli che ho definito in un'altra circostanza perennemente arrabbiati, sempre con la bava alla bocca, sempre pronti a sentenziare, assai poco capaci di ascoltare. Ancora ieri sera Fini a Ballarò, noi siamo piccoli magari ma significativi, piccoli ma significativi. In diretta televisiva tutti hanno preso atto che c'è una piccola componente, numericamente piccola ma credo politicamente significativa, del PDL che non ha votato il documento finale perché ha espresso, anche attraverso il mio intervento, delle motivate ragioni di dissenso in ordine ad alcune questioni relative al PDL. Meno male che Silvio c'è. Allora, andiamo a sentire sempre da Ballarò di ieri sera le ironie di Flavia Perina e di Luca Sofri, che poi sul suo blog si è in parte scusato, su Renzo Bossi. Sentite. Intanto vorrei fare una battuta sui figli. Il figlio politico più celebre del momento è il figlio, insomma, di Umberto Bossi. Là si parlava delle figlie, ricordo le mie figlie, di Zaccheo. Insomma, abbiamo altri celebri, cioè, figli, ognuno ha un figlio. Ma cosa, insomma, vuol dire? Cioè, in qualche scusami, modo. Pazienza. Il figlio di Umberto Bossi è stato eletto consigliere regionale. No, no, ma vedi che fai delle battute. Nulla di più fuori di questo. Luogo. Ma era una battuta per drammatizzare. Ma le battute, però, bisogna anche farle, certo, bene, perché altrimenti non sono delle battute. Allora, forse, sai, era sbagliata. Comunque, entriamo. Era sbagliata, sì. Perfetto. No, se posso rilevare la battuta di Perina, visto che lei l'ha abbandonata, io la riassumo personalmente. Adotto l'emendamento. Visto che è qui abbandonata e nessuno appunto se ne vuole occupare. Il tema del federalismo è un tema estremamente complesso. Che il figlio quando di Bossi, noi qualche parliamo... voto perché c'era scritto Bossi, no, l'avrebbe figlio preso. Figlio di Bossi, no, voto si perché è stato candidato. Non nel listino, con il sistema proporzionale, quindi si è fatto la gavetta e si è preso i suoi voti. Calmi. i fischi del pubblico di Ballarò a questa frase di Roberto Cota. Avete sentito in ordine di apparizione Flavia Perina, che poi si è tirata indietro sul figlio di Bossi, e poi Roberto Cota, Luca Sofri, ancora Roberto Cota, fischiato il presidente della Regione Piemonte. Andiamo a sentire il nostro protagonista della puntata di ieri sera, Raul Casadei, e l'indipendenza, tra virgolette, l'autonomia della Romagna. Romagna capitale, Romagna ballerina, Romagna che si sveglia. Il pubblico, la gente, non è che ha questa voglia di dividersi. Per me sono gli intellettuali romagnoli che vogliono quella tradizione di una volta e poi vogliono separare perché non si sentono adeguatamente protetti da Bologna, da Errani, dal governatore, dalla politica. Sono contrario perché l'Emilia è bello organizzata, le cooperative, l'industria, l'agricoltura, noi romagnoli più anarchici, liberi, però il turismo, simpatici, solari, ma stiamo bene assieme, poi assieme formiamo una regione che è forte, una delle più grosse e più potenti d'Italia. Se ci andiamo a spezzettare non la vedo bene. Romagna capitale, la regione della Via Emilia, la regione degli artisti, dei cantanti, del ballo liscio, dell'ospitalità, la dolce vita, i vitelloni, i bagnini, gli altri organizzati, le cooperative, l'industria, l'agricoltura, il formaggio buono. Ti specchi nel tuo mare. La politica specula su tutto, hanno bisogno di prendere dei voti, fanno il loro mestiere, ma io non sono d'accordo, insomma non è che ce l'ho con la Lega, piuttosto. Com'è bello trovare quegli amici. Ma sì, c'è una parte di romagnoli che la sente, io no. Ma questa gente esiste un sentimento. Va bene, 800 24 00 24. Giovanni da Cagliari, buonasera. Buonasera. Dica. Allora, secondo me la questione posta dal giornale e poi discussa da lei nella parte iniziale della trasmissione potrebbe essere posta in una maniera diversa. Nel senso che la domanda da porre dovrebbe essere: in un'azienda che non sia la RAI, che non sia il baraccone di Stato che conosciamo, con i debiti ripianati dalla finanza pubblica, eccetera, una società formata dalla suocera del Presidente della Camera, o potrebbe essere indifferentemente la moglie di un altro parlamentare, di un politico, del Presidente del Consiglio, avrebbe vinto una gara fatta con i criteri di un'azienda privata? Non lo so, Giovanni, questa è una domanda un po' filosofica, devo dire la verità, perché noi diamo per scontato naturalmente che adesso non so come si svolgono questo tipo di gare, sicuramente non c'è una gara pubblica. Non c'è un concorso pubblico, naturalmente, per cui io ho per scontato che ci sia una professionalità in questa azienda che lavora per la RAI. Io questo lo do per scontato, naturalmente. Dopodiché, io lo do per scontato. No, perché gli esempi sono, però chiaramente ogni punto di vista è sacrosanto, insomma. Dico no perché è strano che c'è una grandissima familiarità tra i vari nomi presenti nelle aziende pubbliche che non si riscontra nelle aziende private. Io penso che un'azienda privata l'obiettivo primario che abbia sia quello di fare gli interessi degli azionisti. Ho capito. No? Non sembra? Sì, no, ma Giovanni, ripeto, secondo me l'unica domanda seria, anche se non ci sarà mai risposta, è se Fini ha avuto un ruolo in questa vicenda. La ringrazio. Leandro da Bari, buonasera. Buonasera. Dica. Io volevo intervenire sull'indipendenza della linea editoriale rispetto alla proprietà di un giornale o di una rivista, perché ho scoperto, parlando con un mio amico direttore di un giornale, che questo è un falso problema, nel senso che... Sì, Leandro, però riduciamo la questione alla vicenda di Feltri e di Fini, perché altrimenti parliamo di... No, ma è molto semplice, perché il direttore di una rivista viene scelta dalla proprietà, e quindi è difficile che una proprietà scelga un direttore che abbia delle idee totalmente dissonanti da quelle che sono le proprie idee. E il mio amico giornalista, il mio amico direttore, diceva: io non dirò mai nulla contro la mia proprietà, ma non per piaceria, perché io la penso proprio come lui, e lui mi ha scelto perché io la penso come lui. Quindi è un problema inesistente quello della... Applicando questa sua regola al giornale, allora? Applicando la regola al giornale, è chiaro che non sono i politici a dettare le cose da dire al direttore della rivista, perché non ce n'è bisogno, secondo lei? Non ce n'è bisogno. Ho capito, ci sentiamo la borsa. Bene, 1934-800-24-0024, D'Alema dice la sua: la sinistra deve abbandonare l'attesa del leader carismatico in grado di battere il leader della destra, deve piuttosto riscoprire la capacità di scendere nei conflitti reali sapendoli poi rappresentare. Attenzione, riscoprire la capacità di scendere nei conflitti reali sapendoli poi rappresentare. Questo D'Alema, se voi avete capito qualcosa di questa frase, ditemelo. Intanto Fini dice sostanzialmente che il giornale è un giornale di merda. E questo lì non ho del corpo sciolto, lo può cantare solo chi caca di molto. Se vi stupite reazione. Se mi permetti di tradurre per i tuoi ascoltatori, Fini ha detto che il giornale è un giornale di merda. Tutto è cosa umana, noi ci svegliamo. Il presidente della Camera, che in questi giorni sta dando a tutti, compresi a noi giornalisti, in particolare a noi del giornale, lezioni di trasparenza, di modernità, siamo il nuovo, siamo la nuova destra, siamo la destra europea che avanza, beh, poi, come dire, alcuni vizietti o ambiguità della vecchia, del vecchio, beh, anche lui ce li ha. Su una notizia che è vera, che Fini non ha smentito, ovviamente. Ancora è il condirettore del giornale Sallusti, perché Fini oggi ha detto: c'è un giornalismo che sguazza nel fango, per non citare quella materia organica che rese famoso Cambron e che va oltre il livello della decenza. Fini parte da un presupposto sbagliato, che è indice anche di come in realtà la pensa sulla democrazia che reclama all'interno del partito. Fini evidentemente è abituato che gli editori del partito, gli editori di un giornale comandano sul giornale, decidono che cosa fa scrivere, che cosa non fa scrivere, che cosa censurare, che cosa non censurare. Cioè Fini ritiene che tutto quello che scrive e non scrive il giornale sia suggerito, imposto da Silvio Berlusconi. Insomma, la questione è posta in maniera brutale è questa: dopo il titolo in prima pagina pubblicato oggi dal giornale, un milione alla suocera di Fini, la madre della compagna del presidente della Camera, capo di una società che da settembre produce parte di una trasmissione, share modesto, cachet molto meno, il giornale è definitivamente un giornale di merda secondo la definizione di Gianfranco Fini. E andiamo a Napoli. Danilo, buonasera. Salve, buonasera. Niente, dottor Cruciani, io sono un elettore di centrosinistra e mi sto interessando, insomma, di questa diatriba Feltri, Berlusconi, Fini, questo incrocio, anzi questo triangolo, va? E, è vero che chi se ne frega se la suocera di Fini prende un milione di euro, non so. Però quello che a me mi lascia perplesso, no? E allora perché la si pubblica quella notizia? Cioè, no, qua non stiamo parlando di il presidente della Camera che ha degli interessi sui personali, come magari Repubblica poteva pubblicare per conto di Berlusconi e quant'altro. Qua parliamo di familiari, cioè lo scopo per cui si pubblicano queste cose. Io credo che il giornale... allora nemmeno la Repubblica doveva essere, come dire, attaccato, insultato da Berlusconi. Se poi se andiamo a vedere, ad analizzare, la Repubblica si limitava a porre sempre... Oggi Berlusconi ha dato la sua solidarietà a Fini, eh? Sì, ma la data per cui dopo, diciamo, a parole no, non è d'accordo con l'iniziativa del giornale, insomma, con il titolo, sì, del giornale. Ma secondo me, mi scusi, è un gioco anche delle parti. Non so, però questo qua, mi scusi, è una sua interpretazione. Lei dà per scontato che Berlusconi è ben contento degli attacchi del giornale a Fini, però poi quando questi attacchi vanno al di là, diciamo, di un certo limite, poi dà una solidarietà scontata, vabbè, diciamo, è una allo stesso scontata, Fini. Appunto. È una solidarietà scontata. Questa non qua è una sua opinione, naturalmente. Sì, però, diciamo che è condivisa, è la stessa posizione di Fini. Oggi dice: perché solo oggi la solidarietà del Premier su Feltri? Ma al di là di Berlusconi, che non mi interessa se è della solidarietà, proprio lo scopo del giornale. Secondo lei qual è? Io credo che Feltri, essendo comunque molto devoto, lasci passare questo termine, a Berlusconi, insomma. Ma guardi, guardi la devozione delle persone nei confronti di qualcuno. Allora magari questa amicizia, va, insomma, mettiamolo così, questa amicizia, comunque lui è un suo fondamentalmente amico, no, di Berlusconi. Io credo che Feltri, prima con Napolitano, adesso con Fini, in passato con la sinistra, con i comunisti, voglia faccia una campagna di annientamento di quello che può essere il pericolo o i pericoli per il governo Berlusconi, e io, questa è la mia opinione, insomma. va bene Danilo, ma per carità, non è la mia opinione, cioè nel senso che da settembre in poi, anche anticipando alcune cose che sarebbero successe, c'è una campagna certamente di attacco, una campagna politica con argomenti qualche volta, diciamo, più degni, altre volte meno degni, del giornale nei confronti di Gianfranco Fini. Su questo non c'è il minimo dubbio. Umberto dalla provincia di Novara, buonasera. Buonasera. Prego. Sempre riguardo Fini, ma voglio dire che più in generale, secondo me, i giornalisti e soprattutto poi anche i politici hanno una grossa responsabilità morale rispetto a noi cittadini. Quindi se un giornalista pubblica una notizia in prima pagina, poi dicendo ma io non ho detto niente, non ho detto, in realtà non ho detto niente o non volevo dire niente, ma come, la metti in prima pagina e poi dici che non volevi dire niente, che non c'era nessun secondo fine? Insomma, uno che non si occupa di queste cose in prima persona, uno che legge i giornali, che non è un tecnico, non è esperto di queste cose, è chiaro che leggendo il giornale si fa una brutta opinione, quantomeno gli viene sospetto che anche Fini abbia fatto qualcosa di male. Beh, certo, certo. Quindi poi il giornalista non può dire ma io l'ho detta così, poi vedremo cosa succederà. Esatto. È una scelta, la scelta è quella di pubblicare una notizia che può dare fastidio a Gianfranco Fini, su questo non c'è il minimo dubbio. Umberto, non penso che Sallusti l'ha negato, Però sono d'accordo con Fini in questo caso, non è un modo giusto di fare giornalismo, perché o fai il pettegolo o fai il giornalista deve fare delle indagini, deve cercare di dimostrare qualcosa, dà una notizia se ritiene che sia importante. Fini può non essere d'accordo, ma ha detto qualcosa di più, ha detto è un giornalismo che sguazza nel fango se non nella merda direttamente, lei è d'accordo su questo? Sì, assolutamente. Grazie. A lei, arrivederci. Giovanna da Milano. Buonasera. Buonasera, dica. Dunque io invece non sono d'accordo con l'ascoltatore precedente, perché secondo me è molto importante come notizia, perché se è stata data questa possibilità alla suocera di Gianfranco Fini, magari non è stata data a un'altra persona che magari stava lavorando da 20 anni per avere un'occasione e si vede passato davanti da una persona che ha solo avuto un favore, e quindi secondo me è il messaggio che è sbagliato di questi favori. Cioè, se noi crediamo nei giovani, dobbiamo anche far vedere ai giovani che le posizioni vanno conquistate. Sì, però francamente Giovanna, d'accordo, non è questo il messaggio che il giornale voleva dare, però a essere sinceri. Beh, però è anche un messaggio del genere, che c'è sempre un favore. Sì. E che le persone e che ci sono. Guardi, quando il modo in cui vengono dati, diciamo, gli appalti alle società di produzione all'interno della RAI sono naturalmente i più svariati. La cosa più importante, ci sono dei rapporti consolidati da un sacco di anni, ci sono sicuramente dei rapporti di amicizia, dei rapporti che si basano sull'affidabilità, insomma, ci sono mille motivi per cui in questo caso non mi sembra che ci sia, visto che Insomma, adesso i risultati del programma sono pare scarsi dal punto di vista della produzione, immagino che le cose siano andate per il verso giusto, può darsi che lo stesso lavoro di televisione. Come, scusi? Mi sembra di aver capito che questa pare che questa società sia stata creata da poco. Sì, d'accordo Giovanna, però o si dimostra, ripeto, che c'è stato un interessamento da parte del presidente della Camera, oppure secondo me resta una polemica abbastanza sterile. Cioè, il fatto che la famiglia Tulliani lavori in quel settore alla RAI non dimostra nulla. Cioè, cosa dimostra? Che da quando, diciamo, Fini è presidente della Camera ha avuto una, non lo so, cioè non mi sembra una cosa particolarmente rilevante dal punto di vista politico. Di facilitare la vita alle persone piuttosto che aiutarla a costruire una vera competenza, e questo secondo me è un po' italiano, ecco, solo questo, cioè bisogna darsi da fare, lavorare costruire il proprio futuro. Sì, ma questo qua vale sempre come ragionamento, per carità, non so se si possa applicare al caso in questione. La ringrazio. Antonio da Pescara, buonasera. Buonasera. Mi sente? La sento. Nulla, il mio intervento, come ho detto alla sua collega poco fa, era relativo al fatto che c'è relativamente da meravigliarsi, secondo me, della notizia data dal giornale. A mio avviso il giornale ha fatto il suo lavoro. Io sono un elettore di centrosinistra. Poi lo si può accettare o non accettare, ho un giudizio io su Feltri, però non ci si è meravigliati quando oggettivamente Repubblica metteva le 10 domande in prima pagina al Premier tutti i santi giorni, secondo me anche giustamente. A mio avviso è una notizia data, sarò io lettore oggettivamente a leggere il giornale, a prendere la notizia, a vedere da chi mi arriva la notizia e fare le mie valutazioni. Dirò di più, oggi si parla tanto di moralità e qui non sto esprimendo un giudizio a priori su interessi o meno o quant'altro, però di certo è una notizia data da una fonte che è Dago Spia, non è il giornale comunque, sì, tra virgolette raccolta da un'agenzia, quindi a maggior ragione. Questa è, le ripeto, una valutazione sul fatto. No, ho capito. Va bene, Antonio, grazie. Eccoci qui, Cristian da Milano, buonasera. Sì, buonasera, dottor Cruciani. Io volevo sottolineare l'atteggiamento del Presidente del Consiglio, che trovo molto ambiguo. Da una parte esprime solidarietà a Fini, al Presidente della Camera, però dall'altro non fa nulla per cambiare il direttore e i giornalisti che lavorano all'interno del giornale di famiglia. Quando invece in tutte le altre testate giornalistiche interviene, a parte le intercettazioni che... Scusi, perché dovrebbe cambiare il direttore No, perché se esprime solidarietà e lui dice che non c'entra niente. Ah, lei dice potrebbe anche cambiarlo, dice lei. Potrebbe anche cambiarlo, come ha fatto di tutto per cambiare tante altre. Evidentemente lì sta Mentana, voglio dire, l'ha cacciato via. Ho capito. Evidentemente gli sta bene, Feltri come direttore. E quello che mi stupisce è che passa anche da vittima, come dire, esprimo la solidarietà, io non c'entro niente. E alla fine si parla sempre di questo santo uomo di Berlusconi. No, però mi scusi Cristian, lei pensa per davvero che per esempio l'attacco di Feltri oggi sulla questione della famiglia di Elisabetta Tulliani sia farina del sacco di Berlusconi? No, non lo penso. Lei pensa che faccia comodo a Berlusconi? No, assolutamente non fa comodo, siamo qua a parlarne e tutta la trasmissione è impostata di questa cosa qua e tutta la gente, come hanno dimostrato le due persone precedenti, comunque hanno recepito la notizia che sì, alla fine predica male, però predica bene, ma razzola. No, ma noi non abbiamo assolutamente fatto passare questa interpretazione del... Lei dice è possibile dopo questo articolo del giornale che i lettori abbiano interpretato, diciamo, la vicenda in questo modo. Sì, certo, non c'è dubbio. Alla fine l'obiettivo è stato raggiunto. E qual è l'obiettivo secondo lei? Denigrare Fini? No, screditare Fini, questo mi sembra chiaro. Ho capito Cristian. La ringrazio. 19:49, abbiamo in collegamento Teodoro Buontempo, buonasera, come sta? Eccoci, buon lavoro. Assessore alla casa e alla tutela dei consumatori della Regione Lazio. Beh, e al terzo settore. Al terzo settore, pure al terzo settore. Volontariato sociale. Evidentemente ci tiene molto. Senta, Buontempo, insomma, io devo dire che la conosco da tanto tempo, la prima volta che ho conosciuto Teodoro Buontempo è stato durante la campagna elettorale per Fini sindaco nel 93 e poi nel 94 durante le elezioni, quando Buontempo ottenne un grandissimo successo in un collegio uninominale, perché all'epoca si votava con la legge elettorale uninominale, credo nel collegio di Ostia, se non sbaglio. Sì, Buontempo, sedicesimo collegio, Ostia, Cilia, Infernetto, Palocco. Vede che memoria che ho, 52,5%. 52,5%, ma ancora se lo ricorda Buontempo. Aveva il 65%, tant'è che quando si votava poi per le amministrative la sinistra prendeva il 65%, alle politiche io vincevo con il 50%. Ancora si ricorda questi numeri, Buontempo? Ma voglio dire, sono cose belle, perché per me la politica è legata al consenso. La politica senza consenso è solo riproduzione di servilismo e di potere. Se fosse per lei si tornerebbe al proporzionale con le preferenze. Ma oppure oppure si va al maggioritario facendo scegliere i candidati da un sistema di primarie pubbliche e non di partito. Ho capito. Anche perché in questi giorni sto sentendo anche un po' di polemiche, no? Anche sulla giunta regionale, ma dico santo Dio, persone che sono deputati e senatori per aver ricevuto un cadeau, perché stavano in un certo numero di liste, dove non hanno speso una lira per prendere un voto, non si sono sacrificati mai un secondo della loro esistenza per fare un servizio al cittadino, e adesso loro rivendicano democrazia. Ma di chi parla lei, Buontempo? Prego? Di chi parla, magari di ascoltatori? Ma sono in parecchi che in questi giorni, lei avrà letto le dichiarazioni, cioè sì, sono sì. Deputati e senatori che, voglio dire, dovrebbero... Cioè, quando loro sono stati indicati, con quale sistema democratico? Sono state primarie? No. C'è stato un dibattito nei partiti? No. C'è stata una selezione meritocratica? No. Quindi non è che la democrazia deve valere. Senta, quando... Buontempo, innanzitutto mi fa un po' impressione, dopo tanti anni, vederla con incarichi di governo, perché Buontempo non ha mai avuto incarichi, diciamo, di governo. Adesso lo vedremo alle prese con questi assessorati. Però vogliamo ricordare agli ascoltatori qual è l'origine del suo soprannome, che è Erpecora. È un soprannome, insomma, che viene da dove? Ma io le devo confessare una cosa, che... questa è stata una invenzione fatta a tavolino, a freddo, dai comunicatori di Rutelli nella campagna elettorale del dicembre 93. Oh, ecco, finalmente abbiamo scoperto qual è l'origine. Allora, ci spieghi perché, meglio, ci spieghi perché, meglio. Insomma, Rutelli, in modo questa cosa, che dice Erpecora con la bocca un po' storta, dice Fini, ci sei tu, di bell'aspetto, di buone maniere, però c'è anche Erpecora. Questa cosa buttata lì, ma trovava... Cioè, Rutelli lo diceva come se fosse, beh sì, c'è Buontempo... Beh, cosa un po' greve, no? Quel buzzurro di Buontempo. E fu un articolo di Fontana Rosa sulla Repubblica, a tutta pagina, che diceva... Erpecora sfida i lupi della politica. E questo lo diceva così, abruzzese, la barba, capelli lunghi... La mia prima esperienza a Roma, vivevo, voglio dire, in un'autovettura, insomma, una vita un po' avventurosa, però... Ma poi lei ha coltivato, lei poi ha coltivato questa immagine del pecora, un po' ci ha marciato, no? No, voglio dire, poi questa cosa, una volta che è detta in televisione e ripetuta... E poi ognuno ne ha fatto l'uso che riteneva. Insomma, però comunque un'invenzione di Rutelli. Questa. Sì, è un'invenzione a freddo fatta da Rutelli, e i giovani poi stamparono magliette, eccetera, e che dicevano Rutelli non è il mio sindaco, attenti al pecora. Ah sì, quello me lo ricordo. Poi dipende da come si dice, da come va. Quello me lo ricordo. Nella vita ho imparato... che si può affrontare di tutto, se uno i ragazzi lo dicevano quasi con affetto. Come no, ma lo ricordo, quella maglietta la ricordo benissimo. Rutelli non è il mio sindaco, attenti al pecora. Senta, Buontempo, ma a lei ha dato fastidio questo appellativo, che lei poi si è trascinato praticamente dal 93 fino a oggi, sì, dunque sì, sono passati 17 anni. Ha dato fastidio oppure ormai insomma, è una cosa che ha accettato? No, le devo dire che per tanti anni... niente, non mi interessava proprio, poi ognuno ne faceva l'uso che voleva, eccetera. Però, voglio dire, mettere per fare i saputi qualche giornalista, no? Che tu fai un buon lavoro, insomma, voglio dire, io scrissi una lettera al grande giornalista Enzo Bianchi, che dice, Erpecora, perché, e gli dice, scusi, io sono arrivato a Roma dal 1500, sono diventato giornalista professionista al Secolo d'Italia. Sono stato eletto consigliere comunale per almeno 10 volte rieletto, il più votato a Roma. Sono stato presidente del Consiglio Comunale di Roma. Sono stato eletto deputato prima col sistema della preferenza e poi col maggioritario. Scusi, quando è che lei mi autorizza a passare dal club del Pecora a quello del Kashmir? E come rispose Biagi? Non rispose perché aveva difficoltà, nel senso che io la mia vita l'ho speso facendo cose. Cioè non ci fu risposta, non ci fu risposta da parte di Biagi? No. Non si abbassava al pecora. Poi lo incontrai e mi disse no, è stato simpatico, ha fatto, insomma, l'apprezzo perché è un uomo di spirito. Ecco questo. Allora, quando uno spende una vita, cioè tutti i quartieri di Roma. Beh, insomma, a lei un po' ho capito che da questo ricordo che ci ha regalato di Biagi e di questa lettera che lei ha mandato a Biagi, insomma, un po' questa cosa le dà fastidio, le ha dato fastidio. Io giro per strada fino a ieri sera, sì. Ho incontrato una signora. Come la chiamano? Stava presentando il libro, che mi stringe la mano, mi dice: guardi, io ho la casa grazie a lei, perché io ho fatto battaglie incredibili. Ma come la chiama? Buon tempo o il pecore? Affaristiche, le lobby bancarie, le sì. lobby delle compagnie di assicurazione per far comprare le case agli inquilini e farglielo pagare il prezzo giusto. No, ma questo qua lo sappiamo, ma questa signora come la chiama? Ho fatto, ma niente, buon tempo. Buon tempo, insomma, non è che la fermano. No, se lei qualche volta la fermano. Fare una seduta di psicanalisi, si accomodi pure. No, perché parlare di politica. No, adesso parliamo. Adesso parliamo. Allora, voglio dire. Ho fatto le battaglie contro la diffusione dei videogiochi per non far alimentare l'usura rischiando la pelle, perché la produzione dei videogiochi è legata alla mafia internazionale sudamericana in particolare. Battaglie incredibili per la vivibilità dei quartieri. E dunque che c'entra questo col pecora? È questo quello che conta di una vita politica? No, certo che conta questo, certo che conta questo. Certo che conta questo, però parliamo anche di quello che è stato. Dobbiamo parlare, che dobbiamo fare? Passare la serata a parlare del pecora? No! Fare una cosa fuori luogo, no? Assolutamente, cioè, ma abbiamo parlato, le ho risposto. Buon tempo, un attimo solo perché ho i titoli dei telegiornali. Resti con me che poi le chiedo qualcosa di leggermente più serio, ma sa, noi giochiamo, scherziamo qui alla Zanzara, eh? E siamo qui alle 20:01 e andiamo a sentire TG5. Sì, della Germania agli aiuti alla Grecia, dopo il Portogallo declassata anche la Spagna, borse ed euro giù. Si sono dimenticati di noi al TG5 una sopravvissuta alla strage di Viareggio. Il marito è morto nell'esplosione, lei ne porta i segni. Mia moglie stava male, nessuno l'ha aiutata, parla il papà di Ilaria, la bambina morta nell'auto data alle fiamme dalla madre, la donna ricoverata in ospedale psichiatrico. Chi vuole adottare un bambino non può esprimere preferenze sul colore della pelle, così la Cassazione, la Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi. Fede e scienza riconciliate, una statua di Galileo nella Basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma, ma nel Frusinate c'è chi arriva a dire no ad una statua di Papa Wojtyła. TG1. Spettro Grecia sui mercati, la Germania chiede un piano rigoroso in cambio di aiuti, declassata anche la Spagna. DDL lavoro, governo battuto in aula, polemiche nel PDL per assenze. Fini da premier, non divorzio, ma rispetti le mie idee. Cicchitto, ok, dimissioni Bocchino. 'Ndrangheta decimata la cosca di Rosarno, a Reggio i cittadini contro, gli applausi al boss portato in carcere. La marea nera è fuori controllo, le autorità USA potrebbero incendiare il petrolio in mare che minaccia la Louisiana. Dal jogging alla maratona, correre è uno sport che trova sempre più appassionati. I consigli dell'esperto. Da gladiatore a Robin Hood e ora cantante a Piazza di Spagna, Russell Crowe dà appuntamento ai fan per il 15 maggio. Vabbè, il TG1 ha scoperto che c'è uno sport che si chiama running, ma siamo in collegamento con Teodoro Buontempo, che è assessore alla casa della Regione Lazio, neo assessore alla casa. Senta Buontempo, lei con chi sta? Con Fini o con Feltri? Ha seguito l'ultima polemica che c'è stata? Io sto con la destra, abbiamo fondato insieme a Storace la destra, se ci volevamo sciogliere nel PDL avremmo potuto farlo, abbiamo detto di no, se volevamo rimanere in AN avevamo diritto di cittadinanza che ci derivava da anni di lotta politica, abbiamo detto di no perché ritenevamo più utile fare una federazione dei partiti del centrodestra e non un partito unico dove si annega in un mare indistinto dove poi esplodono, come è accaduto a sinistra col PD, sta accadendo a destra col PDL, sono le correnti, le polemiche, i gruppi di lotta interna. Senta, però io dicevo ha seguito l'ultima polemica con Feltri, no? Di Fini con Feltri, questo titolo oggi del giornale, 1 milione alla suocera di Fini, secondo lei è un giornalismo un po' spazzatura che sguazza nel fango come dice Fini oppure? Ma dipende, voglio dire, è chiaro che se un giornalista viene in possesso di una notizia la deve divulgare, però il problema qual è? La notizia dov'è in questo caso? Cioè, se questo appalto è stato fatto in violazione delle regole e delle norme e allora è giusto che ci sia il titolo, sia chi sia la persona interessata. Se è una cosa, non può fare scandalo il solo fatto che uno è parente di qualcuno. No, infatti. Quindi se qualcuno dice è stato fatto questo appalto sottraendo un diritto a un altro, è giusto farlo e metterlo. Certo. Però, altrimenti questo è un gioco al massacro che crea una situazione di impunità e le persone normali si rischia che non credano allo scandalo, neppure quando lo scandalo è un fatto reale. È reale, certo. Senta, Montepa, no, adesso tornando, non si arrabbi, per carità, la vicenda della pecora. Tra l'altro, voglio dire una cosa. Naturalmente, Rutelli, quando si inventò questo termine, lo diceva in senso quasi dispregiativo, cioè nel senso Montepa è un buzzurro. Poi io ho avuto modo, seguendo la campagna elettorale, mi ricordo nel 93, di conoscere anche la famiglia di Montepa, e dovete vedere, dovete immaginare una cosa che impensabile. Adesso saranno anche più grandi. Quanti anni hanno i suoi bambini di Montepa? 23, 20, 18. Dunque all'epoca avevano, nel 93, erano bambini praticamente, no? Ed erano praticamente dei piccoli lord, o sbaglio? Così li definì Silvio Berlusconi, comunque sì, ragazzi normalissimi, che voglio dire, a quell'età studiavano l'inglese, il francese, il cinese. Eh no, infatti questa era la cosa. Altro sono che... stati 4 anni e mezzo poi in Inghilterra, è una scelta che io ho fatto solo per far studiare le lingue, perché se uno le studia in Italia poi non capisce quando parla un inglese. Ho una figlia che studia a Oxford, si è laureata, la laurea triennale in architettura, e sta facendo gli ultimi 2 anni di specializzazione. Sì. Senta, quella è una frase che disse Berlusconi, adesso lei me l'ha ricordato, infatti me l'ero dimenticato, no? A proposito dei suoi figli, sempre su queste polemiche che riguardavano Er Pecora. Senta, Montepa, un'ultima cosa, ma insomma lei conosce Fini da un sacco di tempo, no? Oggi Fini ha ripetuto una cosa: io non sono la destra con la bava alla bocca. Però nel 93, io me lo ricordo qualche volta con la bava alla bocca Fini, anche oltre, anche dopo in realtà, no? Com'era Fini nel 93? No, devo onestamente dire, Fini io lo conosco da ragazzo, credo di essere, io ho sempre avuto ottimi rapporti, non ne ho condiviso spesso le linee politiche, però devo dire che Fini è sempre stato, così come lo vede oggi, lo era a 18 anni. Compassato, diciamo. Prego? Un po' compassato, dice lei. No, era 18 anni, è un tipo tranquillo, sereno, eccetera. Quello che ovviamente io gli rimprovero è che uno può andare oltre, può modernizzare un movimento politico, però non si sciolgono 2 partiti nell'arco di pochi anni, fondarne un terzo e poi dire no, questa cosa non mi piace, e lui non risponde mai. Cioè, se il Movimento Sociale Italiano fosse stata una cosa impresentabile, lui che ne era segretario ne sarebbe stato il primo responsabile. Se AN a un certo punto andava sciolto perché non corrispondeva più a un'idea di consenso, il primo colpevole era lui, che ne è stato il segretario sin dalla fondazione. Se il PDL non amalgama le anime diverse, almeno il secondo colpevole è lui, visto che è uno dei 2 soci fondatori. Ma l'errore che si sta facendo, secondo me, qual è? Di pensare che Fini faccia bastian contrario, che Fini voglia creare un'area di dissenso. No, io penso, conoscendolo, che Fini sta seguendo un disegno ben preciso, sta e pensando quale sarebbe? Ad altro. Fini a un centro, ha un problema al centro? Di tempi, semmai, e quindi ha dovuto accelerare questo processo. Il momento in cui sono state vinte le elezioni, Berlusconi avvia la stagione delle riforme, e per lui e per Casini un processo che dura 10 anni significherebbe che loro diventano vecchietti anche loro. Ho capito, loro, insomma, che lei, secondo lei vuole fare il grande centro, insomma. Ma più che il grande centro io credo che facciano un tipo di partito riformista, non ideologizzato, un contenitore nel quale si possa mettere tutto e il contrario di tutto, perché Montezemolo, Casini, Rutelli, insomma, io certo che sarebbe paradossale Rutelli insieme a Fini, dopo ma quello... voglio dire, come paradossale, Rutelli ha iniziato a fare il radicale con gli scioperi, Spinelli, Droga Libera, è passata ai Verdi, lascia i Verdi, fa il candidato sindaco per conto dei comunisti romani, poi si dice era ateo, diventa cattolico, poi si dice uomo in pratica che si riconosceva in quella sinistra, poi fonda la Margherita, poi scioglie la Margherita, poi fonda il PD. Dunque lei dice è come Fini, lei dice sue responsabilità, gira i tacchi, fa un'altra cosa, insomma, voglio dire, la colpa è anche dei cittadini, cioè se un uomo politico, ma chiunque, ogni due anni si pende di quello che ha fatto i due anni prima, ma possiamo affidare il destino di un popolo a uomini che non hanno un minimo di rettitudine e di coerenza e che sbagliano sempre? Uno nella vita, tutti possiamo sbagliare. No, ho capito perfettamente. Grazie a Buontempo, 20 e 10 minuti, buon lavoro, Buontempo come assessore. E siamo qui alle 20 e 12, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Dove andiamo? Carmine da Brindisi, buonasera. Salve, buonasera a lei. Senta, parto con premettendo che io non condivido assolutamente quello che sta facendo Fini, innanzitutto, perché lui da presidente della Camera dovrebbe essere super partes, non prendere posizioni politiche di nessuna. Comunque, il motivo per il quale ho chiamato è quest'altro. Dico, mi sembra strano, e su questo vorrei il suo parere, il fatto che tutta la sinistra adesso sta là a tutti i confini. Non vedono l'ora che faccia cadere il governo. Ma Carmine, non mi pare che tutta la sinistra, come lei dice, sta a confini. Secondo alcuni bisogna avere attenzione nei confronti di Fini, secondo altri bisogna dialogarci solo su un piano istituzionale, secondo altri addirittura nemmeno su quello. Non mi pare che tutta la sinistra stia a confini. Ma una buona parte, sì, cioè, non è scattata come in altre occasioni la sindrome per la quale basta mettersi contro Berlusconi e si diventa degli idoli. Magari qualcuno nel mondo giornalistico è rimasto affascinato dal Fini contro Berlusconi, sicuramente, ma non mi sembra che la politica, insomma, abbia questo tipo di attenzione, la politica. Comunque, di sinistra, come dicevate prima, Fini, Tutelli non si può proprio sentire, è una cosa. Beh, Carmine, questa è fantapolitica, però. Mamma mia. Va bene, grazie. Stefano da Roma, grazie. Stefano da Roma, che bel dialetto pugliese, brindisino. Buonasera, Carmine. Stefano, prego. Buonasera a tutti. Volevo solo dire, sa chi è il più grande re per il popolo di Israele? Chi è? Davide. Sì. Davide, che fece un sacco di cose belle, però fra le altre cose mandò a morte un suo amico in guerra per rubargli la moglie. Si pentì di questa cosa, pagò anche le conseguenze. Noi abbiamo il pessimo, come il popolo italiano, la pessima abitudine di dire mal comune mezzo gaudio, cioè tutti sono colpevoli. E noi, per noi o sono santi o sono tutti disgraziati. Questo attacco dei giornali della famiglia di Berlusconi è la classica cosa che dice agli italiani. Tanto sono tutti ladri. È uguale a cosa diceva Craxi. Qui sono tutti ladri. Quindi screditare tutti per poter fare tranquillamente quello che vuole. Ma guardi, Stefano, in questo caso approfitta di due cose, aggiungo solo una cosa, di due cose, di questi nostri concetti che, se vogliamo, sono anche giusti. Uno un po' il discorso del malcomune mezzo gaudio, l'altro è che la verità sta sempre nel mezzo e lui sfrutta benissimo questa cosa con, ad esempio, Fede, che dice ma Fede è un piccolo giornaletto, non lo guarda nessuno. Sì, ma noi poi mettiamo dall'altra parte il TG3. Che secondo me invece cerca di essere obiettivo. Beh, dalla voce a una e dalla voce all'altra. Quindi noi automaticamente... Ma è diverso, TG3 è un'altra cosa rispetto a TG4, non si possono paragonare. Appunto. Ho detto che è una cosa diversa, non ho detto... Sì, no, infatti, le sto dando ragione. Cioè, dal punto di vista giornalistico, certamente è un prodotto necessariamente diverso, perché è pubblico rispetto a TG4, dunque deve osservare più o meno alcune regole. Poi, insomma, nella scaletta che fa il TG3 è evidente che... Qual è il bastone di comando? Insomma, le do ragione, ti dico che il TG3, che secondo me è un TG che cerca di essere obiettivo, automaticamente nella mente di tutti quanti noi diventa l'estremo da contrapporre al TG4. Sì, però mi scusi. E quindi la verità sta nel TG1. No, però adesso lasciamo perdere la verità dove sta TG1, TG3, TG4, perché non ho capito niente. Lei dice il giornale ha voluto far passare il messaggio che anche Fini ha le sue magagne, anche Fini fa del nepotismo, anche Fini insomma utilizza le istituzioni a suo piacimento, utilizza in questo caso l'azienda pubblica come, come vuole. Guardi, può darsi che sia così. Bisogna notare una cosa, ripeto, la notizia non è stata data dal giornale, è una notizia che ha diffuso ieri il sito Dagospia, ripresa oggi dal giornale. Dunque il giornale riprende la notizia diffusa dal sito Dagospia, che non è che sia un sito antifiniano. Eccoci qua, 20:18, andiamo a Milano. Vittorio, buonasera. Vittorio, mi sente? Non mi sente. Marco da Milano. Milano. Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, buonasera dottor Cruciani. Io volevo esprimere velocemente il motivo per cui credo Fini abbia espresso questo disagio nei confronti di Berlusconi. Credo che Fini negli ultimi anni abbia avuto una svolta liberista significativa, lui deriva dal movimento sociale, adesso incarna, almeno credo, il liberismo proprio dal punto di vista economico, e credo che abbia visto nel governo Berlusconi quel filo di populismo che a lui non è gradito. Peraltro questa svolta, secondo me, liberista, oltre a mancare nei nostri governanti, sia di destra che di sinistra, non ne faccio una distinzione, non è avvenuta, non avverrà con questa cultura che c'è in Italia, negli italiani stessi. Pensiamo un po' che cerca di aggirare gli ostacoli, cerca di non rispettare le regole, quindi il problema, io credo, di queste beghe politiche tra Berlusconi e Fini non è tanto chi ha ragione e chi ha torto, è che tutta la popolazione deve avere una svolta, se l'economia è quella liberale, è una svolta liberale. E dunque Marco, non ho capito, secondo lei Fini incarna l'idea di rivoluzione liberale? No, e Fini è molto più liberista, secondo me, di Berlusconi. Lei dice, Lei dice. Mi sembra, almeno poi potrebbe. Non lo so, guardi, oggi ho letto con grande interesse un articolo sul Sole 24 Ore a proposito della svolta liberista di Fini. Bah, insomma, per carità, magari ci sarà questa svolta liberista nel futuro. Per adesso le grandi proposte liberiste, mi sembrava diversa l'idea che ha dell'economia Fini fino all'altro ieri. Poi magari assisteremo ad una svolta liberale, non so, sulle tasse, sull'aumento dell'età pensionabile e su altre cose, non so, al momento non mi sembra così. Però insomma questa è la mia impressione. L'abolizione delle province, che peraltro ripeto nel programma è ridimensionata, per me andrebbero abolite tutte, che Berlusconi e Veltroni avevano promesso ambedue in campagna elettorale con grande enfasi, dicendo che sono enti inutili, è qualcosa di liberista? Penso di sì. Fini le vuole, dunque da questo punto di vista è una proposta che possiamo definire liberista, però cioè, non mi pare che il gruppo poi di Finiani si sia battuto particolarmente in questi due anni di legislatura per l'abolizione delle province. Poi quali altre proposte di Fini le ha sentito che sono liberiste? No, ma in questi due anni però lui ha fatto il presidente della Camera. Cioè no, ho capito, i Finiani, ho capito, ha fatto il presidente della Camera, però pure un po' di politica l'ha fatta, insomma ogni volta che parla Berlusconi risponde, per cui... No, dei Finiani non glielo so dire, dico, penso, infatti la mia opinione è un sentimento, un'opinione lontana, spero buonista, che non ci siano progetti sotto, Fini si trovi a disagio all'interno di una coalizione, che è il PDL, sì. Dove vengono espressi spesso, senza una critica, non mi prego, io cerco di vivere adesso attualmente la visione della politica in modo veramente risorgimentale, cioè perché la nostra antitesi fascismo e comunismo ci sta bloccando tuttora, no? Siamo un popolo che ha bisogno della psicanalisi di gruppo. Adesso non andiamo al comunismo e al fascismo, Marco. Non ho capito, scusa. No, non torniamo a... Non torniamo, ma ci blocca però questo. Sto dicendo, insomma, adesso che... non è che sia il comunismo e il fascismo a bloccarci. Comunque, Marco, io vorrei capire, lei dice Fini esprime un'idea liberale in economia. Quali sono le tracce di questa roba? Non ci sono, ma infatti secondo me lui... Potenzialmente, cioè vede all'interno del PDL del populismo e secondo me lui lo soffre, credo. Poi... No, Marco, sì, guardi che in alcuni casi il liberismo o il populismo sono andati a braccetto nella storia. comunque insomma, leader populisti e leader liberisti ce ne sono stati. La ringrazio. Dove andiamo? Dove andiamo con un ospite che introduciamo in questo modo. Non so se ricordate, non so se ricordate questa voce. Noi l'abbiamo inseguito per diverso tempo senza mai intercettarlo, non so nemmeno che fine abbia fatto, non ha concesso più un'intervista. Gocce di fango su di me, che non depositai le firme in tempo, cosa inventerò? Ma gocce di fango su di me e sul panino. Siamo arrivati qui, mi sono messo a chiacchierare con un po' di persone. 11:30, come tutti questi qua, 11:30. Siete usciti e siete rientrati quando vi abbiamo visto a mezzogiorno e 45? Eh sì, perché c'era, io l'ho chiamato, ho approfittato per mangiare qualcosa e visto che c'era, lui stava ancora qui, sono rimasto fuori e ho mangiato, sono tornato in tutta tranquillità. Gocce di fango su di me. Che nostalgia di Alfredo Milioni, dove si è cacciato? Lo chiediamo a Fabio Desideri, buonasera. Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori. Dove si è cacciato Milioni non lo so, credo continua a fare il presidente di municipio. Si è divertito anche lei a sentire questa roba. Sì, molto. Allora, Fabio Desideri è stato consigliere regionale Lazio fino alla passata legislatura, quella in cui c'era Marrazzo come presidente, è uno che, diciamo la verità, sarebbe stato almeno sulla carta rieletto sicuramente. Poi c'è stata la vicenda di Milioni, il listino del PDL, la lista del PDL che non è stata presentata. E insomma, è andata come è andata. Desideri oggi che fa? Non fa più politica? Sì, fa ancora politica. In che ruolo? Con sì, che ruoli? In verità siamo ancora in carico perché, come lei sa e come sanno i radioascoltatori, essendo la regione organismo legislativo, i consiglieri uscenti sono in carica finché non c'è l'insediamento del prossimo. E qua, fino a quando è in carica lei? Fino all'11 di maggio, che peraltro coincide con San Fabio, quindi il mio onomastico, meglio di così non si può fare. Dal 12 maggio c'è l'insediamento del nuovo. C'è l'insediamento del nuovo. Senta Desideri, io per carità odio le carte bollate, i ricorsi, le cose del genere, e dunque le dirò sin dall'inizio che queste cose, insomma, ho un po' di allergia per queste cose, però leggo che lei vuole fare saltare il banco, cioè il PDL, il centrodestra ha vinto con la Polverini nel Lazio, è stata una vittoria importante per tutto il centrodestra, come sappiamo. Lei però intende, non so se l'ha già fatto, presentare ricorso per fare annullare le elezioni, proprio partendo dalla vicenda di Milioni, ma solo per il fatto di non essere stato più candidato? Qual è il punto? No, la verità è un pochino più complicata e complessa. Lei ricorderà che c'è stata una fase che tecnicamente si chiama cautelare dei ricorsi, cioè c'è stata una discussione in via cautelare dei ricorsi per la riammissione della lista. Come lei sa, il processo amministrativo si divide in due parti. C'è la prima fase, che è la fase cautelare, che è quella che non ha visto la riammissione della lista del PDL a fronte dei ricorsi presentati dal Popolo della Libertà e dal sottoscritto. A questa fase cautelare per legge segue poi una fase di merito che era già stata definita e fissata e che avrà inizio il 6 di maggio prossimo con l'udienza al TAR, quindi ci sarà il TAR, qualora non avessimo giustizia il Consiglio di Stato e qualora non si avesse giustizia in Italia la Corte Europea dei Diritti. Ecco, però scusi Desideri, è un po' curioso, lei è del PDL, a meno che non l'abbia lasciato in questi giorni dopo le vicende della presentazione della lista, delle elezioni eccetera eccetera, e vuole far annullare attraverso un ricorso elezioni in cui ha vinto il centrodestra, non è un po' strano? No, la definizione esatta, l'impostazione esatta del problema non è questa, l'impostazione esatta del problema è un'altra. Noi a suo tempo chiedemmo giustizia perché un comportamento contro legge dei magistrati delegati alla ricezione delle liste e un comportamento politico sicuramente non esente da responsabilità, quale quello di chi ha deciso di mandare Milioni e Polesi in zona Cesarini a consegnare la lista, aveva impedito l'insieme di queste situazioni e aveva impedito a tutta una classe dirigente di presentarsi alla elezione e dunque di essere eletta. Questo l'ho capito, però insomma, il risultato alla fine è quello che dico io, Desideri, mi scusi un attimo, il risultato è quello che dico io, cioè a un certo punto uno questi ricorsi potrebbe pure ritirare dato che ha vinto un vostro rappresentante alla fine, o no? Perché altrimenti se passano questi ricorsi bisogna rifare tutto. Il risultato è che un'intera provincia con 3.800.000 abitanti, e cioè Roma e la sua provincia, dei quali circa 3 aventi diritto al voto, non ha potuto, per una serie di errori e di ingiustizie, non ha potuto andare al voto, esercitare questo diritto in piena libertà come prevede la Costituzione italiana, perché una parte in partito di maggioranza relativa, e cioè il PDL, che aveva presentato 41 persone, uomini e donne, questa tornata elettorale, si è vista impossibilità da poter... Insomma, ma la colpa alla fine, al di là dei magistrati eccetera, lei qualche responsabilità a questi qua che hanno un po' tentennato, hanno commesso degli errori in quel corridoio, la attribuisce a Milioni o Polesi oppure no? Io anzitutto la attribuisco a chi coordinava Milioni e Polesi, cioè mi spiego meglio. Cioè ai loro, diciamo tra virgolette, capi, no? Sì, volevo finire il concetto. Sì. Cioè, la norma prevede la possibilità di presentare la lista in 2 giorni, il 30° e il 29° giorno prima che si voti, che nella fattispecie era il venerdì e il sabato. Il sabato è successo il fattaccio, però sì, si poteva presentare il venerdì. Allora la domanda è questa: siccome noi consiglieri candidati, consiglieri regionali uscenti ed altri, avevamo fatto tutti gli adempimenti per tempo, cioè sottoscritto le candidature, presentati, certificati, pagati, perché hanno aspettato così tanto? Esattamente, la domanda è questa. E perché fino adesso a questa domanda non risponde nessuno? Lo so, Desideri, lei ha ragione, perché se la prende, e posso capire, insomma, lei sarebbe stato eletto, però il risultato è quello che dico io, se va a finire come indicano e come vorrebbero i vostri ricorsi, si rifà tutto e la Polverini decade. Ci sentiamo tra un attimo, mi scusi. Gocce di fango su di me, che non depositai le firme in tempo, cosa inventerò? Ma gocce di fango su di me e sul panino, gocce di fango su di me, che non depositai le firme in tempo, cosa inventerò? Ma gocce. Beh, insomma, Polverini in pericolo per i ricorsi presentati e ancora pendenti, diciamo così. Siamo in collegamento con Fabio Desideri, che fino all'11 maggio, come ci ha precisato il consigliere regionale del PDL, e probabilmente, adesso non lo sappiamo, insomma, sarebbe stato rieletto, era sicuramente in quel listino di cui abbiamo parlato a lungo, presentato, non accettato nemmeno da parte dei magistrati al Tribunale di Roma. Senta Desideri, io devo fare un po' l'avvocato del diavolo, qui c'è un'ascoltatrice che mi dice, ma insomma, la questione è che Desideri è uno di quelli che alla fine non ha ottenuto un assessorato o comunque un posto di peso all'interno della regione e adesso continua con questo ricorso. Come risponde a queste accuse? No, non è così, non è in discussione questo, il ragionamento è un pochino diverso. Cioè, il 27 febbraio è successo qualcosa che rimarrà nella traccia della storia della nostra Repubblica. Allora, prima o poi ci dovrà essere un giudizio. Guardi che l'eliminazione nel modo con cui è avvenuta di una lista, laddove addirittura c'era una disposizione del ministro dell'interno. Però si sono pronunciati diversi giudici su questo, Desideri. Sì, no, volevo però finire una cosa. Attenzione, si sono pronunciati sul cautelare e nessuno ha mai detto se le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà che noi abbiamo allegate siano fatte. Però adesso, non entriamo nel merito di contese giuridiche. Si sono pronunciati sulla legittimità dell'esclusione, chiamiamola così, di quella lista. Per carità, adesso io non voglio entrare nel merito giuridico di una discussione, però ci sono state diverse pronunce giudiziarie. No, continua ad affermare che non è così, e chiedo scusa se l'ho interrotto. Non è così. Il semplice fatto che si pronunceranno soltanto quando avrà finito la discussione di merito, che è pendente presso il TAR e eventualmente il Consiglio. Ho capito. A quel punto si saranno pronunciati definitivamente. Sono d'accordo con lei. Senta, fino a quel momento si è ancora in attesa di giudizio. Senta, ma insomma, secondo lei, mi dica la verità, la Polverini è in bilico per questi ricorsi qua? Lei ci crede sul serio oppure no? Io credo ancora che vivrà in un paese dove sia possibile ottenere giustizia. Si figuri se non crede in questo. C'è gente che ci ha rimesso la vita per arrivare ad un paese di questo tipo, quindi io continuo a crederci. Se ci sarà prima o poi un giudice che affermerà che che l'esclusione di quella lista è stata un'esclusione illegittima, significherà che tutto quello che si è svolto dopo è illegittimo. Ora, tenga ben presente che io sono felice e soddisfatto che sia il centrodestra ad aver vinto le elezioni, sì. Però il problema è un altro, il problema è la giustizia che viene negata. Senta, ma lei ha detto che quelli che hanno combinato il casino dovrebbero essere presi e cacciati a calci nel sedere, così? Invece dove stanno adesso? Beh, diciamo, questa è un'affermazione abbastanza dura, però il concetto è sicuramente strano che chi è responsabile dell'aver creato le condizioni e situazioni su cui poi si è strutturato anche l'errore dei giudici sieda poi al tavolo che detta i criteri, le regole e le forme per la partecipazione alla giunta. Beh, questo è sicuramente singolare, cioè chi è incapace a presentare una lista diventa poi capace a dettare le regole per chi dovrà rappresentare un partito importante in una giunta sicuramente importante quale quella che la vuol venire. Va bene. Questo mi pare singolare. Grazie, buona serata. 800 24 00 24, ricorsi, l'effetto milioni ancora non svanisce, come avete sentito. Barnaba da Bologna, buonasera. Sì, buonasera, salve. Io volevo dire che sono d'accordo con Fini. Al di là del fatto che fa malissimo a parlare, perché prima di tutto un politico che parla male dei giornalisti è sempre antipatico, e poi vabbè anche il ruolo istituzionale che ha, e vabbè, lasciamo stare il fatto che il giornalismo di quel tipo non lo fa solo il giornale, lo fanno un po' tutti, ma è anche inutile nascondersi dietro un dito dicendo che Berlusconi c'entra o non c'entra. È ovvio che c'entra, perché Feltri quegli attacchi a Fini gli faceva ben da prima di essere al giornale, e voglio dire, al giornale ce l'ha messo la proprietà del giornale, che è di Berlusconi. Beh, veramente gli attacchi a Fini non li faceva prima. Qualcuno ha ripescato, tra l'altro, delle frasi di Feltri particolarmente morbide nei confronti di Fini di qualche anno fa. Quando era libero, non mi pare di avere mai letto delle campagne come quelle di adesso nei confronti di Fini. No, però comunque, insomma, voglio dire. Però questo, scusi, è un ragionamento. Che va a vantaggio di Feltri in questo caso, cioè ha iniziato le campagne contro Fini prima di andare al giornale. Sì, no, ma io non è che io di Feltri ho un'opinione anche abbastanza, cioè non quello che dice, ma nel senso la sua coerenza e anche, voglio dire, una certa bravura nello scrivere, cioè, per carità. Non va a favore di Berlusconi il mio discorso, nel senso che secondo lei c'è lo zampino di Berlusconi? Mi sembra evidente, nel senso, se ha pescato uno che poi scrive queste cose qui, voglio dire, o lo cambia, no? Se è inutile stare a dissociarsi ogni tanto e poi, insomma, secondo me è proprio nascondersi dietro un dito. Ho capito. Grazie Barnaba. Intanto grazie, vi faccio riascoltare il giornale di merda, così lo ha definito Fini, in pratica dicendo quello che ha detto nella registrazione di Porta a Porta. E questo lì non ho del corpo sciolto. E se mi permetti di tradurre per i tuoi ascoltatori, Fini ha detto che il giornale è un giornale di merda. Cosa ha detto Fini? C'è un giornalismo che sguazza nel fango, per non citare quella materia organica che rese famoso Cambron e che va oltre il livello della decenza. Soprattutto è cosa umana. Guido da Roma, buonasera. Buonasera. Io volevo dire che Feltri è l'esponente proprio di quello che non dovrebbe fare neanche il giornalista, non il direttore di un giornale. Esatto, è un lacché. Sono felice che Gino Strada e che Emergency l'abbiano denunciato. Guardi Guido, sulla denuncia di Gino Strada, un attimo, si fermi. Da quando stava all'Europeo, Feltri è una persona che mira soltanto all'audience, ai soldi e allo scandalo per lo scandalo. In questo momento è asservito pure a Berlusconi e dovrebbe essere cancellato. Purtroppo viviamo in uno stato. La ghigliottina no, eh? La ghigliottina no. la ghigliottina no, dovrebbe smettere di scrivere, perché per dire, e che devono fare? Devono intervenire i carabinieri? Perché mescola, deve intervenire i carabinieri, devono credere che il giornalismo sia tutto uguale e che le cose siano Guido, che dobbiamo fare? Mandare i carabinieri? Perché ci sono giornalisti seri. Devono intervenire i carabinieri, Guido, per farlo smettere di scrivere? Che devono fare? Feltri? Devono intervenire i carabinieri per farlo smettere di scrivere? No, no, per me può scrivere quello che vuole. Beh, come? Ha appena detto che non deve più scrivere, scusi. Io, se fossi, diciamo, se fosse... l'ordine dei giornalisti, che è un ordine che fa schifo, perché poi... Vabbè, fanno tutti schifo. Guido, scusi un attimo. Ho capito, ma che cosa... caso, vabbè, non vuole ascoltare. È una persona che dovrebbe... Date tutte... Certo, si era ritirato dal giornalismo per la quantità di denunce che aveva accumulato. Però Guido, mi scusi un attimo. Evidentemente non ha retto alla tentazione, è stato chiamato di nuovo al guinzaglio dal padrone e quello fa... E svolge il suo ruolo, male, in un modo scandalistico, che confonde i già deficienti italiani che non si sa perché votano questa persona che è un ladro. Vabbè. perché Feltri perché non scrive che Mills è stato condannato? Io la lascio parlare, io la lascio parlare in libertà. Io la lascio parlare in libertà. Lo dice questo? Nessuno, lo dicono altri giornalisti, quelli veri, quelli seri che fanno le inchieste. Va bene. E così è. Così è. E anche così. Lei, anche da questa sua tribuna, che spero le toglieranno, perché la Confindustria si sta schierando un pochino contro questo governo, meno male, visto che tanto è la Confindustria che in Italia detta le cose, speriamo che la tolgano, perché è peggio di Forbice lei, è come Forbice. Come Forbice. Giornalismo così, anzi insomma, peggio non di è Forbice. Giornalismo. Peggio però, perché come? Peggio. Sì, peggio. Perché fa finta anche di essere chissà una specie di democratico, mentre non lo è, non è niente lei, non sono niente. È un asservito. Sono un asservito a chi? Asservito a al chi? Potere. Al potere dominante. Quale potere dominante? È quello del nostro governo. Qual è? Ne vede altri di poteri dominanti? Beh, insomma, ci sono tanti poteri in Italia. Sì, va bene, allora è asservito a quello, è asservito alla massoneria. Che vuole che le dica? Io non la conosco personalmente, però allora... non mi piace come tratta la gente che parla veramente delle cose. Sì. Non mi piace come la liquida, non mi piace lo spazio che dà in più alle opinioni governative rispetto al paese reale, che non gliele dà invece questo spazio. Perché glielo dà la provincia corrotta e la provincia più ignorante, perché non è un caso che nelle grandi città Berlusconi è oramai alla frutta. Ma non stava parlando non di me nelle grandi città, Guido, ma non stava parlando di me, perché adesso è passato a Berlusconi. Parlo di tutto. No, vabbè, devo parlare di lei. Questo l'avevo capito. Io lei non la considero una zanzara, le zanzare si schiacciano, ci stanno anche le racchette cinesi che fanno ciaff. Speriamo che incappi in una di quelle. E schiacci allora, schiacci lei. Io non schiaccio nessuno, spero che lei incappi in una racchetta cinese che la frigga. Chissà chi la... Sarebbe una degna fine. Una degna anche fine. Anche per il suo programma, veramente una degna fine. Si sentirebbe quel... Finisce. Ma scusi, perché oppure vada in vacanza con Feltri. Aspetta, guardi questo, Guido. Feltri, guardi questo. Senta questo, Guido, senta. Lo conosco, la zanzara. No, bravo. Che zanzara, il finale, risentiamo, il finale, Guido, mi stia attento. Ha sentito? Sì, lo schiaccio. Lo schiaccio. Ma quella era la paletta, non era la tecnologia moderna. E vabbè, la paletta che vuole farmi e io voglio la friggitoria cinese. No, io non ci sto con la friggitoria. Io non ci sto con la friggitoria, abbia pazienza. Sì, ne riesce molto meglio. No, ma non ci sto, non è che mi voglio far bruciare. C'è il dolore, c'è anche quella che aspira. Ma al massimo e rimane nel buco nero, perché ma io dove ma no, ma perché nel buco nero. lei intervistava Pecora, ma lo sa chi è Er Pecora? Anche se Berlusconi ha detto che c'ha i figli Lord, Er Pecora è un picchiatore di Roma, schifoso, nazista, questo è. Vabbè, e lei non può adesso dire che Er Pecora è un Lord. Ma chi l'ha detto? Ha capito? Non lo può dire, Guido, perché non lo è. Guido, è uno che ha ammazzato, questa è gente che ha ammazzato, ha capito? Gente che si macchia di crimini, gente che è votata dalla mafia, votata dalla mafia, mette le schede in tasca, mette ha capito di chi difende lei? Sì, sì. Gente che dice che Saviano fa pubblicità alla mafia ed è il nostro presidente. Ma che c'entra del Pecora? Consiglio, ma che c'entra il Pecora? Ma che c'entra il Pecora? Un giornalista. Ma che c'entra il Pecora? Che anche la vita, che ma che c'entra il Pecora? A fare quel lì. Ma che c'entra il Pecora? È famoso a livello mondiale, però fa una vita di merda, poveraccio. Guido, ma lei è tutto a posto, sì? Come non si può permettere che i medici di emergency, che solo perché dicono tanto la verità, il traffico, cioè che noi mandiamo il traffico, il 40% dei bambini, intanto noi mandiamo che il traffico. Lì sul campo, eccoci, 20:50, Guido è sparito, magari lo recuperiamo. Massimo da Napoli, buonasera. Buonasera Cruciani, io ho sentito l'intervento dell'ascoltatore prima e dico una cosa, noi a Napoli diciamo una cosa che è semplicissima, lei non è peggio di Forbici, a Napoli diciamo uno puzza e nato fede, quindi un po' faccia lei, se conosce il detto. No, me lo spieghi lei, me lo spieghi. Uno puzza e nato fede vuol dire che uno è peggio dell'altro, però questo voglio dire, rimane nello scherzo e non è ma a chi si riferisce Massimo, non ho capito. A chi è peggio dell'altro? A lei è Forbice. Allora, io volevo fare solamente un... Scusi Massimo, non ho capito. Mi spieghi meglio, uno è peggio dell'altro, ma perché mi chiama allora? Non ho capito. Perché doveva dirlo a... Perché chiama? Prima. Lo dico anche a quello di prima, non si preoccupi. Ma perché chiama? Se lei pensa che... Non se la prenda con me. Ma io non sto, la sto prendendo con lei. Lei per scusi. Dire questo, per dire, io volevo fare una domanda, faccio la domanda. No, ma lei può fare una domanda, ma se considera questa trasmissione il peggio o il peggio di qualcos'altro... perché non ci c'è di meglio, no? Ma perché ci sta chiamando allora Massimo? Perché chiama? No, ma per capire, voglio capire, non me la sto prendendo con lei, voglio capire. Ma scusi, ma se date uno spazio ai cittadini, qualcuno chiama, se c'è altre trasmissioni non danno spazio, nessuno chiama. Dunque non è tutto così orrendo. Diamo spazio. Allora perché parla di peggio o di non peggio? Scusi. Perché l'altro ascoltatore ha detto che lei è peggio, ha detto lei non è peggio. Chiaro? Non sono chiaro. No, non è chiaro comunque. Non è chiaro. Un attimo solo, Massimo, però resti con me. Abbiamo di nuovo Guido da Roma. Guido, mi ha chiuso la linea, ma com'è possibile? No, me l'avete chiusa voi. No, non l'abbiamo chiuso noi, Guido. Vabbè, è caduta, non lo so. Comunque c'ha ragione questo ascoltatore di Napoli. È vero, lei non è peggio, è come. È come Forbice. È come uno puzza, l'altro fede, la stessa cosa. Com'è sta storia? Io con uno puzza e l'altro... Bisogna anche essere radicati in Italia, avere una cultura italiana, un po' generale. Lei ce l'ha? Insomma, lei ce l'ha? Non so se lei è di tendenze leghiste o quello che è, non mi interessa. No, ma lei mi ascolti però, Guido, non parli da solo, se non mi ascolta poi non possiamo... Ah, l'ascolto, che mi vuole dire? No, nel senso che quando lei parla, se mi ascolta, così riusciamo a fare un dialogo. A confrontarci bene, altrimenti se lei parte per la tangente... poi no, si... io non parto, mi dica. No, prima era partito per la tangente, non riuscivo più a parlare con lei. No, senta, voglio dire, ma... dove eravamo arrivati? Eravamo arrivati che Feltri scrive delle cose veramente false e gli dà un eco e un clamore che non meritano e che confonde. Ah no, alla zanzara, scusi, alla zanzara schiacciata, ma veramente vuole fare chiudere questa trasmissione? Veramente vuole fare chiudere questa trasmissione? Lei mi ha detto prima il suo datore di lavoro, diciamo, non il suo datore di lavoro, è il nostro presidente del consiglio. Scusi un attimo Guido, lei ha detto prima spero che la chiudano questa trasmissione, abbia pazienza. Sì, l'ho detto, perché è allora una trasmissione che non mi piace, però allora perché ci non chiama? È che è una perché speranza ci chiama? Così, ma non mi interessa, per me possono prolificare queste cose, non voglio chiudere niente e nessuno, chi è che vuole chiudere le cose è quello che lei mi sembrava, io non difendo nessuno, Guido, ma io non difendo nessuno. Ha capito? Figuriamoci. È quello che vuole chiudere. Ma io non voglio chiudere nessuno. Le intercettazioni telefoniche, ma si rende conto? Le intercettazioni telefoniche. Adesso partiamo con le intercettazioni. Eh? No, adesso partiamo con l'argomento delle intercettazioni, che è molto interessante, per carità. Ma no, non è molto interessante, è molto grave. È anche grave, oppure secondo me è grave. È molto grave, la libertà di stampa, le denunce ai giornalisti, i ministri che denunciano i giornalisti, gli scrittori, Tabucchi che dovrebbe pagare, quell'altri, i poveracci del Fatto Quotidiano che devono pagare per aver detto delle cose che... Senta, lei che giornali... Guido, ho capito. Lei, scusi un attimo, Guido. Neanche al giornalista, neanche al direttore ho capito, del giornale, un attimo. Cose civili e non penali, una cosa... indegna. Ho capito, cioè, senta. Viviamo in un momento terrificante, lei come giornalista dovrebbe stare dall'altra parte. Guido, scusi un attimo, io non sto difendendo nessuno. Guido, scusi un attimo, ma lei mi faccia capire un po' per inquadrare anche chi ci chiama ogni tanto. Ma lei che giornali legge la mattina? Io? Dipende dal giorno. Però, insomma, il suo giornale di riferimento qual è? Quello di cui si non fida di più? Non ho giornali di riferimento da tanto tempo, purtroppo. Cioè, no, dico, legge con attenzione qualche quotidiano in particolare. Certo, leggo gli articoli che mi interessano, delle firme, cerco delle firme nei giornali che mi interessano. Ho capito. E quindi leggo i giornali. E la politica? E la politica, c'è qualcuno di cui si fida nella politica? Nella politica c'è qualcuno di cui si fida? Nella politica? Sì, c'è qualche politico di cui si fida? No. No. Non, cioè, per... non capisco la domanda. No, cosa vuole dire? Ci c'è sono qualche degli osservatori politici molto acuti. No, c'è qualche politico di cui si fida, cioè, oppure la politica le fa schifo tutta. No, no, la politica non mi fa schifo affatto, mi fanno schifo, per esempio, D'Alema per me è uguale a Formigoni. Ho capito. Le posso dire questo. Va bene. E D'Alema. E qualcuno le piace? Va bene, qualcuno le piace? Qualche politico? Le piace qualche politico? È una persona su cui non si può scrivere niente. Ho capito. Ed è uno che ha molto da nascondere. Va bene, ma qualche politico le piace o no? C'è qualche politico che le piace? Certo, per esempio la Polverini non mi piace, pur essendo una donna, ex Finiana. No, qualcuno che le piace, che non le piace. Vendola, per esempio. Vendola le piace. Io non lo conoscevo neanche, piace. Piace. È uno che ha fatto una giunta con mettendoci la metà delle donne. Sette donne e sette uomini. È una persona che ha vinto uno schieramento di partito pesante come quello di D'Alema e del PD. Ho capito. Popolarmente ha amministrato bene. Va bene, piace, va bene. Non mi piace invece. Ho capito, Guido, ho capito. Complotto contro Marrazzo. Ho capito, Guido, però la devo interrompere perché la devo interrompere. La devo interrompere perché ho chiuso la trasmissione. No, bene, è che ho chiuso la trasmissione, Guido. Lei, la cambi questa trasmissione, diventi un po' di parte. Va bene, grazie. Arrivederci. Allora, Adriano da Napoli, ci sentiamo domani, se vuole Massimo pure, Gabriele da Roma, Marco da Roma, Domenico da Brindisi, dobbiamo chiudere, la Zanzara termina qui, ci sentiamo domani, 18:30.